Quando parliamo di futuro, voi immaginate che possano esistere network di nuova generazione in Europa in quanti anni? 5-10? Ma in un mondo come le telecom, non è mai sensato guardare oltre i 5 anni, perché gli impatti della tecnologia a volte sono troppo, troppo forti e trasformano tutto in breve tempo. Quindi sicuramente si guarda sempre non oltre i 5 anni. Quindi quando si parla di futuro, entro 5 anni. In 5 anni noi ci aspettiamo che paesi come Corea e Giappone siano già intorno al 40, 50, 60% di penetrazione in fibra. Ripeto, sono investimenti importanti. Oggigiorno l'obiettivo è quello di ridurre il digital divide, quindi garantire un accesso a internet a tutti. Allo stesso tempo è anche importante garantire una migrazione verso reti che tecnologicamente rendano possibile l'utilizzo di internet per diciamo, ulteriori scopi produttivi, eccetera. Quando parliamo di servizi evoluti per poi utilizzare questi network di nuova generazione, di che tipo di servizi stiamo parlando? Buona domanda, ancora non c'è una chiara identificazione e secondo me questo è il vero motivo per cui oggigiorno ancora non si vedono venire soldi dal privato, perché sia dal punto di vista del lato consumer, sia dal punto di vista del lato produzione, quello che si nota è che oggi è importante avere un buon accesso internet, ma i 100 megabit piuttosto che i 20 che si possono ottenere sul rame ancora non sono un elemento fondamentale, no? Cioè, ancora non si capisce a cosa servono questi 100 megabit. Sicuramente questo è il domani e tutti sappiamo che dovremo arrivare lì, però al momento è più un atto di fede che altro.